del libro di Bruno Moroncini, La carne politico, pubblicato da Cronopio. Il libro sarà presentato da Francesca Tarallo, psicanalista dei forum e responsabile dell'Igles a Napoli, e Davide Tarizzo, che insegna filosofia all'Università di Salerno. Che cosa dire, diciamo così, come introduzione di questo libro? Perché il mio compito è di introdurre il dibattito e poi eventualmente inserirmi, diciamo così, nella discussione. È un libro, si diceva appunto poco fa, abbastanza difficile da presentare, molto difficile da presentare, perché il libro è composto da vari capitoli, alcuni pubblicati, in effetti arriveranno di volta in volta, diciamo così, alcuni pubblicati già in altri luoghi, diciamo in un volume, in riviste, e che Bruno ha raccolto e pubblicato in questo testo che veramente vi consiglio di leggere, perché è un testo, diciamo così, molto interessante, molto particolare, forse per gli analisti può risultare anche, diciamo, ostico in alcuni punti, ma secondo me è un testo che fa riflettere anche l'analista per l'uso che Bruno fa di alcune nozioni. Invece un altro capitolo, in particolar modo il primo capitolo, che secondo me è un capitolo interessantissimo e anche un capitolo decisivo, è scritto proprio per questo volume qui. È un testo che fa parte di una lunga ricerca da parte di Bruno. Cioè Bruno, per chi come me e altri l'ha incontrato negli anni Ottanta, leggendo questo testo, per esempio leggendo in particolar modo il secondo capitolo che riguarda la questione del sintomo, dove Bruno riprende un argomento che è stato poi un po' uno degli argomenti suoi importanti, i quattro discorsi di Lacan, diciamo così, sono stati affrontati da Bruno in un altro testo che fu pubblicato, la prima edizione alla fine degli anni Ottanta, credo, un testo dal titolo Il discorso della cenere, pubblicato da Guida, che Bruno poi ha ripubblicato con una prefazione di Carmelo Colangelo per Codlibet, eccolo lì, eccolo, la sincronia si direbbe, io lo nomino e lui appare. Le parole di cose. Però se si leggono, diciamo così, si legge questo testo e si conosce un po' il percorso di Bruno, ci si accorge della grande attenzione che Bruno dedica agli sviluppi del dibattito nell'ambito lacaniano. Per esempio, una differenza molto importante che appare subito è che quando si legge la lettura che Bruno fa della teoria dei quattro discorsi nel testo Il discorso della cenere, lì, giustamente per ragioni anche storiche, perché non era apparso nel dibattito dell'epoca, il discorso del capitalista manca completamente, e quindi Bruno fa una certa lettura di questi quattro discorsi. È vero che già ci sono delle intuizioni in quel capitolo lì abbastanza importanti, per esempio quando Bruno mette in rapporto il capitalismo col discorso universitario, e già lo fa nel discorso della cenere, qui invece fa un passo avanti nel suo discorso e quindi chiaramente mette in evidenza, partendo dal discorso del capitalista, fa, diciamo così, di questo discorso la variante del discorso del metro contemporaneo, cosa che non poteva fare all'epoca. Perché effettivamente sia nel dibattito italiano, sia se vogliamo anche nel dibattito francese principalmente, diciamo così, questa questione del discorso capitalista non era ancora all'ordine del giorno. E poi va detto anche che alla fine degli anni Ottanta, quando Bruno aveva scritto questo testo, sui quattro discorsi non c'era ancora un'edizione ufficiale del seminario, tant'è vero che poi nella nuova edizione, diciamo, Bruno aggiorna l'edizione e mette poi i riferimenti dell'edizione francese e italiana pubblicata ufficialmente da Miller. E quindi, diciamo così, si vede che è un testo che fa parte di una lunga ricerca, cominciata molti anni prima, ricerca che poi si è diciamo così, concretizzata anche in altre pubblicazioni, quella sull'amore nell'ottavo seminario dove Lacan legge il simposio, che è pubblicato da Cronopio, in un'altra ricerca sull'etica della psicoanalisi, un libro scritto da Bruno e Rosanna. Però qui, secondo me, diciamo così, c'è un passo importante perché in questo testo Bruno tenta una oggettivazione, diciamo così, del discorso lacaniano, applicandolo in particolar modo al campo della politica. Il primo capitolo è importantissimo, che è un capitolo di confronto principalmente con Badiou, che è un filosofo francese che è stato molto vicino a Lacan, perché Badiou, va ricordato, diciamo, è anche uno che aveva scritto nei Cahiers pour l'analyse, e quindi negli anni 60 lui seguiva Lacan, non è un detrattore di Lacan, però se uno decide nel campo della Cahiers pour l'analyse vede la pubblicazione di un articolo di Badiou molto importante, che è Marche e mancanza, che è un articolo, diciamo così, molto importante, perché fa una certa lettura anche del testo di Lacan, La scienza e la verità, dove Lacan, l'ultimo testo degli Écrits, dove Lacan poi fa riferimento al teorema di Gödel. Ma quindi è un autore molto importante. Qui Bruno sceglie di confrontarsi con Badiou e non con altri come Laclau ed altri filosofi politici, perché effettivamente riconosce a Badiou lo statuto di qualcuno che in effetti, diciamo così, aveva attraversato l'opera di Lacan, conosceva Lacan, non era né uno che usava in modo disinvolto i concetti lacaniani, né uno che era un detrattore di Lacan, diciamo, quindi, e si confronta con due testi principalmente di Badiou, diciamo così, i testi sono tre, di cui uno l'abbiamo in italiano, che è pubblicato dal Melangolo, L'essere e l'evento, altri due invece sono Théorie du sujet, dove Badiou fa una lettura politica del tempo logico di Lacan, e dove poi un altro testo è L'esemplaire sull'antifilosofia, dove Badiou attraversa questa nozione di antifilosofia di Lacan e quindi scrive Lacan in una tradizione che è quella dell'antifilosofia. Ma la cosa interessante è come lui, Bruno, partendo da questa lettura di Badiou e con questo confronto con Badiou abbastanza serrato su queste questioni, sul tempo logico, sulla questione, Bruno fa riferimento, poi utilizza la nozione lacaniana di atto analitico trasformandola in atto politico. E questa è una questione su cui io poi voglio tornare alla fine, perché è una questione che pone dei problemi molto interessanti a mio avviso, che fa sorgere delle questioni. Però naturalmente Bruno è anche un filosofo, cioè nel senso che lui non è uno psiaiste che si limita a leggere Lacan, quindi diciamo così, in questo testo, per esempio nel primo capitolo, ma non solo nel primo capitolo, trovate qua o là dei nomi propri che secondo me fungono da veri e propri punti di Capitone, visto che sono la parte dell'analista Lacan, la faccio fino in fondo. Un nome è sicuramente Walter Benjamin, perché Bruno nel primo capitolo apre con Benjamin, cioè il frammento teologico-politico del 21, chiude con Benjamin sul surrealismo e chiude poi in ultima analisi con un punto di Capitone a mio avviso finale interessantissimo, che è un testo di Marguerite Duras, dove diciamo che è un testo letterario di Marguerite Duras che si chiama Détruire dit-elle, che la traduzione corretta è distruggere, dice lei. Moreno Menghi su un sito che è www.freudconlacan.com ne ha dato una traduzione secondo me più rigorosa dell'Enaldi e della Marcos y Marcos, che funge proprio da punto di Capitone, perché è proprio lì che, in questo modo qua, che Bruno legge l'atto analitico come atto politico, come atto di dissoluzione, come atto di distruzione. E su questo poi dobbiamo tornare, perché sicuramente avrò occasione di porre delle questioni. Gli altri capitoli sono invece dei capitoli in cui si confronta con Žižek, con altri autori sulla questione del sintomo, sulla lettura di Marx, eccetera. E poi c'è un capitolo che in effetti fa parte di un volume dove c'era stato anche un mio contributo, e diciamo così, che è quello là che riguarda politiche dell'angoscia, che è effettivamente un capitolo, diciamo così, che riguarda la questione della contemporaneità in particolar modo, e che attraversa vari autori anche qui, e quindi richiede di volta in volta di capire come Bruno articola il confronto con questi autori e in che direzione va invece il suo discorso. Poi l'ultimo capitolo è un capitolo, diciamo così, che la democrazia non è da tutti, un titolo molto interessante, perché mi ha fatto pensare a un capitolo di Winnicott, un nome molto importante della psicoanalisi inglese, in un capitolo, credo che si trovasse in un testo sulla questione della famiglia, sullo sviluppo della famiglia, c'è una riflessione di Winnicott sulla democrazia, anche se Bruno poi va in un'altra direzione, però lì a un certo punto Winnicott fa una considerazione e dice che effettivamente la democrazia non è da tutti, perché richiede una maturità, richiede qualcosa, e infatti difende l'istituzione monarchica, cioè come ogni analista, diciamo così, anche Freud, anche Lacan, riteneva sempre importante tenere da qualche parte un posto di eccezione che al momento opportuno poi doveva prendere delle decisioni. E quindi c'è questa riflessione di Winnicott in questo ambito che mi ha fatto ricordare esattamente questo articolo di Winnicott sulla questione della democrazia. In effetti il libro di Bruno è interessante perché a un certo punto fa anche delle considerazioni: i psicanalisti non se ne fregano niente del politico, non sembra che lasciano tutto ai filosofi politici, quindi arrivano questi Laclau, che effettivamente sulla scia di Bruno, e mi sono andato un po' a vedere che cosa dicevano, delle cose inenarrabili nel modo in cui usano il punto di Capitolo, il reale. Devo dire che anche in Badiou questa nozione di reale politico non è che mi ha convinto molto, perché diciamo non è proprio dire reale politico, aggettivare il reale con il politico non sarebbe proprio lacaniano, diciamo così, come operazione. E quindi spronano un po' gli analisti a intervenire in queste cose, dicendo poi gli analisti si occupano di politica soltanto nei momenti in cui toccano la loro professione. E quindi vabbè, io direi a questo punto qua di entrare nel dibattito e di entrare nella presentazione del libro, e darò la parola, do la parola a Francesca Tarano, che come ha detto Mario, diciamo, come dire, sostiene la difficoltà della presentazione di un libro, e sicuramente la cosa che posso dire innanzitutto è di comprare questo libro e di leggerlo, anzi di studiarlo, perché sicuramente, diciamo, è un libro che, insomma, è complicato, però è un libro che assolutamente merita. E naturalmente, essendo l'unica qui, diciamo, a non avere nessuna formazione filosofica, potete anche, diciamo, come dire, immaginare perché la mia è una deriva sicuramente verso la clinica e verso, diciamo, quella che è sostanzialmente la mia formazione e il mio lavoro. Però effettivamente, diciamo, e quindi, diciamo, il capitolo che in qualche modo mi ha incuriosito, interessato e intrigato di più è sicuramente quello sul sintomo, perché di fatto, diciamo, come dire, c'è stata un'attrazione fatale rispetto a questa cosa. Però anche, diciamo così, su questo interrogativo in fondo da sempre, su che cos'è la politica per la psicanalisi e se la psicanalisi è politica, e che cosa risponde lo psicanalista alla politica nel senso della contemporaneità. Attualmente il dibattito è fortissimo, diciamo, su questa posizione dell'analista della psicanalisi all'interno della contemporaneità, si fanno convegni, si fanno tramontare i padri, e quindi effettivamente, diciamo, non è poco, diciamo, intrigante essere tirati dentro. Allora, la prima cosa è che mi sono venute tutta una serie invece di proprio di libere associazioni sulla posizione di Lacan, per esempio, che già nel 1953, in funzione e campo della parola, invita gli analisti, diciamo, a non essere fuori dal loro tempo, quando dice: rinuncia a fare l'analista chi non è capace di leggere nella propria contemporaneità la Babele di lingue, vi rinunci, cioè non lo potrà fare. E dunque io già lì nel 53, diciamo, come dire, la sua posizione è sicuramente una posizione che ha a che fare con la politica, ovviamente con la politica dei legami, che è quello di cui sostanzialmente si occupa Lacan. Poi ancora nella logica del fantasma, lui dirà qualcosa di molto forte dal mio punto di vista, vi leggo la citazione, dice: l'inconscio è politico, esso merita di essere portato all'altezza dei più fondamentali fra i legami che per noi rimangono in attività. Quindi credo che sia, diciamo, un richiamo molto forte, non dice la politica è l'inconscio, ma l'inconscio è politico, e questo lo troveremo poi, diciamo, come dire, in un Lacan molto più avanti, anche nel suo concetto di extim, di extimité, cioè in fondo l'inconscio, diciamo così, viene dall'altro, quindi non è l'oscuro, il profondo, è in quanto tale, è per definizione politico. E direi che su questo, diciamo così, ci possiamo un pochino orientare. Ancora dirà nel seminario a cui Bruno, diciamo, come dire, ha fatto maggiormente riferimento, che è il rovescio, diciamo, della psicanalisi, dirà: l'intrusione nel politico può essere fatta solo riconoscendo che non c'è discorso, e non solo analitico, se non del godimento, almeno quando ci si aspetta il lavoro della verità. Qui ancora in qualche modo, diciamo così, non ha mollato completamente, diciamo così, l'inconscio strutturato come linguaggio, tant'è vero che organizza i discorsi, che discorso, concetto, tema proprio, che dobbiamo fondamentalmente a Lacan, perché nella psicanalisi, diciamo così, freudiana, indubbiamente Fulvio Marone riconosceva, mi sono portato un appunto che ho guardato nel, nel libro Attualità dell'Isteria, in cui lui fa tutto un articolo molto bello sull'isteria, lui dice che il discorso, diciamo così, dell'isterica va attribuito a Freud. Lo attribuisce a Freud, fa tutto, è molto bello, insomma vi consiglio di leggere, e non a Lacan. Lacan, diciamo così, lo usa, lo prende, però il discorso dell'isterica, per almeno per Fulvio Marone, era sicuramente da attribuire a Freud. La differenza è che naturalmente con i suoi piccoli, diciamo così, matemi, Lacan li logicizza, diciamo, li disantropizza. A questo punto è già arrivato, perché è passato, diciamo così, per il suo periodo fortemente strutturalista, quindi diciamo ha fatto fuori una serie di miti in qualche modo, e dunque in questo senso si può dire che sia di Lacan. Allora, quindi che cosa ci permette di cogliere, diciamo, il tema del discorso? Lo dice Lacan stesso, no? Ci permette di cogliere proprio nell'espressione della parola a qual punto la psicanalisi, proprio come lui l'è andata ad orientare, non si occupi solamente degli individui uno per uno. E dunque già questo, diciamo così, lo possiamo collocare in quello che lui diceva: l'inconscio è politico. Ora, ovviamente non è che soltanto Lacan, insomma, ha parlato, si è occupato, diciamo, del tempo in cui esisteva, ma se ne è occupato Freud parlava di disagio, sappiamo i suoi testi, Disagio della civiltà, che è un testo fondamentale, e anche Freud in qualche modo se ne è, diciamo, occupato, a partire però dall'esperienza analitica. Non ha scritto prima il Disagio della civiltà, ma ha scritto per prima gli studi sull'isteria, se vogliamo, diciamo, cominciare da un lavoro importante di Freud. E dunque, diciamo, entrambi riconoscono che l'esperienza analitica ha qualcosa che riguarda l'insieme della collettività, e dunque la scrittura dei discorsi, che è la scrittura dei legami sociali in qualche modo, è effettivamente, diciamo così, la chiave di volta dell'intreccio con la politica, dal mio punto di vista. Allora, perché? Perché ogni discorso è una modalità, è un tipo di legame che viene scritto. Ora, d'altra parte, uno dei capitoli del rovescio della psicanalisi si chiama campo lacaniano. Ora, la nozione di campo lacaniano, dal mio punto di vista, nomina proprio l'estensione del campo in cui proprio il discorso analitico ha qualcosa da dirci, da dire. Ora, questa nozione, come poi leggerete molto bene, mi è piaciuto molto, nel libro di Bruno, è stata introdotta subito dopo gli eventi del 1968, tra il 69 e il 70, proprio nel momento in cui la società francese era profondamente scossa, come sapete. Ora, dice Jacques-Alain Miller nella postfazione, diciamo così, del seminario, questa tematica significava far vibrare una corda molto precisa, non è proprio una citazione, ma comunque, insomma, lo dice lui, significa far vibrare una corda molto precisa per quegli studenti contestatori che sono i destinatari privilegiati di quell'anno. E allora, che cos'è poi questo seminario a cui Bruno dedica moltissimo, moltissimo spazio nel suo libro? È un interrogativo sulla padronanza. Lacan si interroga sulla padronanza e lo dichiara molto precisamente quando fa riferimento al concetto stesso di discorso, dal mio punto di vista, perché un discorso in fondo è ciò che ammette di voler padroneggiare. Da qualche parte un discorso padroneggia, e naturalmente lo possiamo vedere subito su come si chiama, è la scrittura proprio dei quattro discorsi, dove nel posto della gente in fondo c'è un posto di comando. Perché è comunque, diciamo così, è il posto, come sapete bene, del sembiante, è il posto del cambiamento, ed è però il posto di comando. E qui su questo poi dirò una cosa più in là, che diciamo che un po' mi fa piacere poi interrogare anche io Bruno su questo. Dunque, evidentemente quindi la scelta di Lacan di inventare poi un discorso del padrone, e lo inventa come contrappunto alla psicanalisi, sempre Jacques-Alain Miller dice, non è innocente, non è, diciamo così, una posizione innocente. Però non si inventa, come sapete, soltanto il discorso del padrone, ma anche quello dell'università, dell'isterica, e soprattutto il discorso dell'analista. Ora, nel 71, quindi poco dopo, quando scrive di un discorso che non sarebbe del sembiante, dirà che un discorso si mantiene proprio su quattro posti privilegiati, uno dei quali è rimasto il nominato, quello che vi dico io, cioè il posto, diciamo così, del comando da qualche parte, è un posto che resta innominato. E precisamente, diciamo così, quello che a causa proprio della funzione del suo occupante dà il nome al discorso. Dunque, il discorso del padrone, il discorso dell'università, dell'analista, dell'isterica sono decisi in base a questo posto innominabile, dove è possibile, diciamo così, cambiare qualche cosa. Quindi quando, diciamo così, come possiamo dire, si parla del discorso del padrone, quando il significante padrone si trova in un certo posto, quello dell'università, quando un certo sapere si trova da qualche parte e quando invece ci sta il soggetto proprio nella sua divisione che è fondatrice dell'inconscio, naturalmente questo lo dice Lacan, è il discorso dell'isterica, lo dice in un discorso che non sarebbe del sembiante. Quando infine lo occupa che cosa? Il plus godere, e allora quello è il discorso dell'analista, e questo naturalmente è il posto del sembiante, dato che siamo in quel seminario. Ora, qual è il postulato, diciamo così, che ci può riportare in qualche modo alla cosa che abbiamo detto in inizio, diciamo così, all'inconscio politico? Secondo me il postulato è che i legami sociali, i legami che esistono proprio tra gli esseri umani con i loro corpi, non soltanto, diciamo, con le loro parole, con la loro condotta, sono assolutamente ordinati dal linguaggio. Cioè, questi legami non esistono senza essere ordinati dal linguaggio. E questo, diciamo così, è quello che, secondo me, ancora nei quattro discorsi pone Lacan, diciamo, su una direttiva ancora molto freudiana, anche se, come diremo dopo, nel suo rovescio, diciamo, però ancora molto freudiana, perché ancora il riferimento è all'inconscio strutturato come un linguaggio. Allora, infatti, se la utilizziamo, questa formula, credo, famosissima, e lo utilizziamo come un postulato, possiamo dire, possiamo utilizzare un altro postulato, quello del campo proprio lacaniano, che è la realtà dei legami sociali, anche loro strutturati nel linguaggio e come linguaggio. Quindi ci troviamo ancora, diciamo, secondo me, in quella traccia freudiana, sia pure poi vediamo, diciamo così, presa al rovescio. Infatti il campo lacaniano è uno dei capitoli, come dicevamo prima, del rovescio. Ora però ricordatevi che già il rovescio, che è un altro termine abbastanza intrigante, diciamo, di Lacan, anche se usa già questa parola in un lavoro, diciamo, negli scritti, nel lavoro dei nostri antecedenti, lui dice che vuole riprendere il progetto freudiano al rovescio. Che cosa è successo? Perché voi sapete che dei nostri antecedenti, sebbene pubblicato negli scritti, è stato fatto ovviamente dopo, insomma, cioè, quindi, diciamo, non ha a che fare con il lavoro che precedentemente aveva scritto lì. Insomma, è successo qualcosa, che lui si è innamorato del lavoro di Freud del 20, perché voi sapete che il primo Lacan assolutamente, diciamo, si interessa della prima topica, non guarda troppo al di là del principio di piacere. Questo è il punto della torsione, secondo me, il punto della torsione per Lacan, il primo punto, perché poi ne ha tanti, è proprio quello del 20 di Freud, al di là del principio di piacere, che apre anche per Freud, diciamo così, è un punto di rovesciamento, se volete, no? Perché apre con la pulsione di morte, che Lacan però chiamerà godimento. In una conferenza, diciamo così, a Caracas, dove lui, diciamo, dice: io sono freudiano, per quanto mi riguarda siete voi ad essere lacaniani, quindi in un certo senso si nomina anche lui nome del padre, nominando lo stesso Freud, a garanzia in qualche modo della psicanalisi. Lui dice: quello che è suo è quello che è di Freud. Sicuramente sono suoi, dice, i tre registri, ma anche il campo del godimento. Anche se in fondo bisogna dire che la vera grande, diciamo, invenzione lacaniana è l'oggetto piccolo A, insomma, però sempre del campo del godimento in qualche modo. Allora, che cosa cambia, diciamo, con questo punto di rovesciamento dell'opera di Freud? E siamo già qui a un rovescio, diciamo, della psicanalisi. Che cosa diventa la chiave di volta per Lacan? Questo lo trovate anche bene, molto bene, nel seminario 11, cioè diventa la ripetizione che è già parte del godimento, e lo è anche per Freud, insomma. Allora, ovviamente però, mentre, diciamo, per esempio già l'utilizzo del fort da, se vi ricordate, c'è il minimo di catena, mentre per Freud era ancora, diciamo così, un tentativo di padroneggiamento del godimento, per Lacan non è più così. Quindi effettivamente lui guarda al godimento, quindi guarda, diciamo, alla ripetizione, diciamo, a questo rovescio, e quindi però passa dalla catena minima S1 S2 a quella, diciamo, della soddisfazione enigmatica, se vogliamo, che troviamo nel dispiacere e dunque nel godimento, e apre, comincia piano piano, diciamo, questa strada che poi, come sapete, diventerà effettivamente molto molto, diciamo, impegnativa sul piano del lacanismo, insomma. Ma allora, che cos'è questo rovescio? Dal mio punto di vista, questo è il primo elemento della ripresa a rovescio del progetto della psicanalisi freudiana, insomma. Ora, ovviamente, rovescio, come tutti quanti penso sapete, qui almeno gli analisti lacaniani sanno che non vuol dire affatto il contrario della psicanalisi, perché il rovescio fa riferimento essenzialmente alla trama, proprio il rovescio e il diritto, la cosa più semplice che potete pensare, però della medesima stoffa. Qui lui poi introdurrà, come sapete, cioè descriverà questa possibilità attraverso il nastro di Möbius e dirà che è proprio nel punto di torsione del nastro di Möbius che si pone poi il soggetto vivente, insomma, quindi farà un'operazione un po' più in là. Allora, però ritorniamo, diciamo, a quello che è il rovescio, a quello di cui parlava Bruno. Quale sarebbe in questo caso il rovescio della psicanalisi? Sembrerebbe essere il discorso del padrone, in qualche modo, che è anche proprio lo scheletro, se volete, della vita quotidiana. Se pensate a Freud, alla psicopatologia della vita quotidiana, diciamo, immaginate subito che il rovescio, diciamo, della psicanalisi in questo caso è il discorso del padrone, che è anche il discorso dell'inconscio, dirà Lacan, insomma. E dunque che cosa fa se si interroga sulla padronanza in questo caso, quando parla poi del discorso dell'analista? Diciamo, deve ammetterne la difficoltà. D'altronde nel seminario, insomma, dirà sempre: guardate che io non è che ho una risposta risolutiva, io pongo, diciamo, delle questioni, perché effettivamente se si interroga sulla padronanza è molto difficile, diciamo, eliminare qualunque seduzione di padronanza dal discorso dell'analista. Del resto possiamo dire che, perché lui dice l'analista deve essere contrario, una sua citazione, ad ogni volontà, dirà, almeno dichiarata, lo dirà nel seminario rovescio, di padroneggiare. Allora, quindi l'analista dice è tutto salvo che è un padrone, però Lacan non l'ha sempre pensata così, diciamo la verità. Negli anni 50, negli anni 60, ma forse anche negli anni 40, che cosa fa Lacan? Esalta, diciamo, l'analista come maestro di verità e quindi non trascura le risonanze della padronanza, perché un maestro di verità è anche un po' padrone, dunque non è, diciamo, non è non sedotto da questa possibilità, però diciamo ne è consapevole. E dunque che cosa dice Jacques Lemmle nella postazione che ha tutto fatto un primo Freud, non so se l'avete letta, un secondo Freud, possiamo dire un primo Lacan, un secondo Lacan, un Lacan, dice lui, che martirizza Lacan in fondo in questo seminario. Ora, riprendere a rovescio il progetto, diciamo, della psicanalisi implica qualcosa che non è conosciuto nel 1953, il campo del godimento, ok? Vale a dire, che cos'è questo campo del godimento? È il sapere come mezzo di godimento, cioè qualcosa che ha sempre meno a che fare con il senso e con la verità. Questo è il grandissimo, diciamo, cambiamento che poi, sapete, porterà proprio all'ultimo Lacan, in cui formulerà in maniera molto molto, diciamo, incisiva il reale con la R maiuscola. Ora qui, diciamo, l'effetto di godimento, come sappiamo, insomma, anche all'epoca del seminario è l'aggiunta della A piccola. E quindi se vi leggete il libro di Bruno, come ho scritto qui, ne saprete molto, perché lui si sofferma molto. Però io dov'è che invece, diciamo, mi piacerebbe soffermarmi un po' di più? Sul discorso del capitalista, che ovviamente mi ha molto intrigato. Che ho capito bene, se ho capito bene, per Bruno, diciamo così, sarebbe la trasformazione, credo che tu, a pagina 89, dici non si aggiunge agli altri quattro, ma semplicemente sostituisce il discorso del mentre. E questo è quello, diciamo, che dice Bruno. Allora, io ho ragionato, diciamo, in questo modo. Ovviamente devo dire che a pagina 155, per esempio, del seminario, sempre diciottesimo, sempre quello di un discorso che non sarebbe del sembiante, voi potete, diciamo, possiamo entrare in questa, diciamo, seduzione, perché Lacan dice che il quinto discorso ne parla come di una determinazione del discorso del maître, che, come giustamente dice Bruno, dobbiamo pensare al must o must a Napoli, che non è proprio il padrone, ma è chi dirige, ma anche un sapere, insomma, proprio Fulvio Maroni usava sempre questa cosa, diceva un must in qualche modo, diciamo. E allora è vero, nel diciottesimo seminario, il quinto discorso, Lacan lo dice una determinazione del discorso del padrone, che è poi, come abbiamo detto prima, diciamolo, il discorso dell'inconscio. Allora, perché lo dico? Perché il discorso dell'inconscio presuppone una catena, dove c'è qualcosa che è un significante maître. Allora, che cosa presuppone il discorso del padrone? Un vettore ed una possibilità, come per gli altri discorsi, di una rotazione oraria oppure antioraria. E sicuramente presuppone un'altra cosa, la barra. E qui, diciamo così, possiamo subito vedere la formula di cui prima, l'inconscio strutturato come un linguaggio. Ora però il discorso del capitalista, dirà Lacan, diciamo, a Milano nel 72, disfa i legami. Allora, abbiamo visto che, lo dice nel Du discours psicanalitique, insomma, disfa i legami. E allora già qui ci dobbiamo interrogare come può essere semplicemente una sostituzione del discorso del maître, che presuppone nel posto della gente un significante padrone e dunque presuppone un minimo di catena. E allora lui dice che disfa i legami, ma che cosa vuol dire poi disfare i legami, visto che stiamo parlando del campo analitico? Significa anche disfare le classi sociali, dirà Lacan. Ora, questo naturalmente negli anni 70, precisamente appunto nel 72 a Milano, che l'ha scritto, rappresenta soltanto una grande preveggenza, perché non aveva avuto ancora, diciamo, la ripresa che tutti quanti vedete in questo momento. Ovviamente il discorso del capitalista è sempre, questo lo dico anche per i ragazzi dell'ICLES che vedo lì, è sempre con i quattro termini che usa per tutti quanti gli altri discorsi, cioè un S1 e un S2 che simbolizzano ancora la catena del linguaggio e quindi l'ordine del linguaggio, cioè un S barrato, cioè, vale a dire, come sapete, il soggetto che è marcato dal linguaggio, e poi il quarto termine c'è sempre la piccola A. Quindi i termini sono assolutamente gli stessi, la piccola A che nei discorsi va a designare il plus valore. Però quello che, diciamo, sorprende, se ne facciamo la scrittura, è che cambiano le frecce. Va bene? Le frecce non si interrompono, cioè non c'è una vettorialità, ma, dice Lacan, c'è una freccia continua e senza interruzione. Quindi possiamo trovare, per esempio, il soggetto nel posto della gente, la catena di linguaggio, in questo caso la troviamo in diagonale, e in basso a destra, nel posto in cui c'è il prodotto, resta sempre la A. Ora però, appunto, l'abbiamo detto, negli altri discorsi c'è una barra. Che cosa vuol dire la barra? Sapete quanto è importante nel cambiamento dell'algoritmo sossuriano la presenza della barra? No, significa che c'è qualcosa che è scivolato sotto. Lui questa barra non la fa funzionare e dice che non c'è nel discorso del capitalista la stessa discontinuità che dà la barra. Praticamente significa che non c'è alcuno iato da colmare, cioè non ci può essere un effetto di verità, cioè praticamente non c'è niente che passa sotto la barra. Questo che cosa vuol dire? Che non c'è un termine di comando. Che non c'è un termine di comando. Ora, è vero, sembra passato poco tempo da quando scrive il seminario diciassettesimo è quando dichiara il discorso del capitalista, ma è passato invece per Lacan tantissimo tempo, perché nel frattempo che cosa ha fatto? Ha scritto il seminario Ancor, che è del 72-73, che è un seminario di svolta, è un seminario di grandissima svolta. Che cosa succede in questo seminario? Come sapete, fa capolino la lingua scritta tutto attaccato, trova un posto assolutamente d'onore il non c'è il rapporto sessuale, comincia gli esperimenti con gli anelli di corda, c'è un capitolo che si chiama proprio gli anelli di corda con tutto quel che segue. È sempre a Milano lì che incontra un'altra cosa Lacan, girandosi, guardando, incontra lo stemma dei Borromei. E dunque questa cosa, diciamo così, che cosa ci fa pensare? Che la via al reale con la lettera maiuscola è totalmente aperta. E allora, che cos'è poi ancora il seminario Ancor? È anche il seminario in cui il postulato, un significante, rappresenta il soggetto per un altro significante, assume la consistenza del segno. Cioè il significante, questo detto, diciamo, esce fuori la lingua tutto attaccato, vale a dire che con l'uno proprio di questa la lingua, il significante rappresenterà la marca del soggetto, vale a dire sarà un segno, sapete che fa tutta la cosa, il fumo, tutta la questione del fuoco, eccetera. E dunque che cosa significa questo? Significa che è il tempo dell'apparato di godimento e che il vidente è il punto di intersezione, quello che vi dicevo che potremmo vedere sistemato nella torsione del nastro di Möbius. Ora è anche, diciamo così, anche il luogo dove parla di più del sapere senza soggetto, ne ha già parlato nel 69 nell'atto analitico, dunque non è certamente nuovo. E questo rovescio, però, diciamo così, il sapere senza soggetto acquisisce una forza fondamentale nel seminario Ancor, che sapete che tutto il dibattito se è un seminario sull'amore o se è un seminario sul sapere. Colezzo Levi dice che è un seminario sul sapere e dunque il sapere senza soggetto assume sicuramente la forza, diciamo, che avrà poi negli ultimi tempi. Allora, alla svolta di queste cose però che diciamo, mi pare che il discorso del capitalista possa assumere tutto un altro valore di quello di essere una determinazione del discorso del maître o una sostituzione del discorso del maître. Innanzitutto abbiamo detto non c'è uno iato e questa è la prima cosa che definisce l'assenza di un termine di comando, cioè il soggetto che comandava la catena significante, diciamo così, per produrre il più di godere in basso a destra, si vede che anche l'oggetto che può comandare, cioè può comandare il soggetto, ma può comandare anche l'oggetto, perché se vi ricordate le frecce nel discorso del capitalista sono incrociate e le due freccette sono tutte e due verso il basso. Dunque in questo modo Lacan intende, diciamo, descrivere la circolarità e la non discontinuità, diciamo così, di questa freccia ininterrotta. E questo dal mio punto di vista cambia le cose, perché ne fa un circuito chiuso, continuo, ininterrotto, in cui, diciamo, possiamo dire che sono sia il soggetto che i prodotti a comandare. E dunque, secondo me, c'è un Lacan fortemente politico, cioè nella scrittura del discorso del capitalista. Ovviamente, io dico che questo non solo implica, diciamo così, una lettura del campo lacaniano e quindi dei rapporti e dei legami sociali, ma ha qualcosa a che fare e profondamente con l'atto analitico stesso. Diciamo la svolta, perché da quel momento Lacan comincerà ad avere a che fare nell'analisi, supererà le impasse freudiane, diciamo il dispiacere freudiano, il pessimismo freudiano dell'impossibilità, diciamo, di un'analisi, diciamo, che possa ben concludersi, diciamo così, e comincerà a interrogare la possibilità di lavorare con l'inconscio reale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sarà più soltanto un inconscio verità, ma ci sarà un'articolazione, la Colezzo Levi lo dice molto bene nell'inconscio reinventato, tra l'inconscio verità e l'inconscio reale, che è l'inconscio godimento, in qualche modo. Ora questo, diciamo così, questo discorso capitalista si presta molto bene, diciamo, a descrivere in fondo anche la difficoltà della realizzazione del legame sociale tra i partner umani. Perché? Perché cosa fa in qualche modo, visto che ha queste freccette così, in qualche modo descrive il rapporto, solamente il rapporto di ciascuno, di ciascun soggetto con questo oggetto plus valore. Cioè ognuno, diciamo così, ha un rapporto privato. E in questo senso, pur definendo, realizzando una forma di fantasma, va bene, c'è però un fantasma collettivo in questo caso, che è però condizionato da tutta l'economia. Cioè, dice Colette Soler, è un faccia a faccia con l'oggetto plus valore. Ora, in questo caso compare questo reale con la R maiuscola proprio nell'impossibilità di scrivere legami tra i parlesseri. Sapete, vedete che a questo punto io non sto più dicendo, sto parlando di parlessere, perché dopo il seminario 20 Lacan dirà così: questo intreccio tra l'inconscio reale e l'inconscio strutturato come un linguaggio. Allora, se fosse una variante, dal mio punto di vista, ma lo interrogo naturalmente, del discorso del padrone, significherebbe solo che lì dove c'era l'antico padrone era venuto il capitalista ed il proletario si sarebbe sostituito all'antico schiavo. Però non possiamo dire che i proletari, diciamo così, non avessero solidarietà. Vi ricordate? Proletari di tutto il mondo, unitevi. E dunque da qualche parte i legami erano fatti salvi, perché in questo senso effettivamente sì, si sostituisce il discorso del padrone, ma non è quello di cui parla secondo me Lacan per il suo discorso del capitalista. Naturalmente legge Marx, lui veramente è fondamentale il libro di Bruno per capirci qualcosa in più, e gli riconosce proprio, e lo prende in prestito, la teoria del plus valore per i ragazzi della mia scuola che stanno lì. Cioè il lavoro produce del valore da una parte, e una parte di questo non viene pagato e andrà a gonfiare le tasche del capitalista. Ora, dice Colette Soler, la rivoluzione francese, forse lo dice anche la Camera, non mi ricordo, ma era riuscito, ah no, lo dice Lacan, scusate, in radiofonia, non è Colette Soler, dice la rivoluzione francese era riuscita a polcruderlo, non è riuscita a pensare, dice Lacan in radiofonia, quello che era riuscito a Marx di pensare, ossia che i diritti dell'uomo e lo sfruttamento sull'uomo vanno a braccetto. E allora, però dopodiché lui si distacca completamente dalla lettura marxista, insomma non credo, non prenda molto di più. Perché per Lacan il plus valore, che cosa, perché può sostenerlo nel discorso del capitalista dal mio punto di vista? Perché costituisce, diciamo, quello che lui chiama l'oggetto perduto, anzi meglio l'oggetto rubato, l'oggetto sottratto in qualche modo del proletariato, però anche l'oggetto causa di desiderio del capitalista. Dunque un desiderio uguale per tutti. Lui lo dirà in maniera molto ironica, cioè userà l'ironia per parlare di, diciamo così, di una certa uguaglianza nel desiderio. E dunque questo è un punto molto, direi, piuttosto consistente della tesi del discorso del capitalista. Il secondo punto, è produrre per il consumo e consumare per sostenere la produzione. Ora Lacan in radiofonia lo dice, la produzione estensiva, dunque insaziabile della mancanza a godere. E sostiene, dice sempre in radiofonia, una patente partecipazione di tutti gli attori all'economia capitalistica. E quando dice questo intende effettivamente, o perlomeno questo è quello che penso io, diciamo la continuità e il giro della freccia, perché mette tutti sullo stesso posto e dunque qui non c'è un'articolazione del legame. Ora però anche lui dice non sono tra gli associati, tra gli angosciati, anche se va già all'epoca a parlare di segregazione. Sul termine segregazione parla dei mercati globali, diciamo già lui lì si occupa e credo che anche lì si abbia una posizione politica abbastanza chiara, insomma, in qualche modo. Colette Soler a questo proposito parla del narcinismo, sempre nell'inconscio reinventato, che è un neologismo tra il narcisismo e il cinismo, e lei dice però non è il cinismo che ha il valore della dissidenza, come per esempio il cinismo di Diogene, il quale dice ad Alessandro levati dal mio sole. No, assolutamente non è un cinismo dissidente. E dunque, ultimo punto per il discorso del capitalismo è che esclude le cose dell'amore, arrivando Lacan a dire che c'è una forclusione della castrazione, ok? Parla proprio di forclusione della castrazione. Allora dice Colezione, ma come? Esclusione delle cose dell'amore. Qua non si parla d'altro, tutte le trasmissioni, tutte le cose, diciamo, non parlano di nient'altro, se no delle cose dell'amore. Allora come mai c'è l'esclusione delle cose dell'amore? E lei se lo spiega così. Cioè dice, c'è un contrasto in fondo con le altre epoche, che sono epoche nelle quali i rapporti in fondo sono ordinati. La fabbrica degli affetti, se volete, ha un ordine, è istituzionalizzata. Allora, si sviluppano dei veri e propri discorsi sull'amore. Lei cita la filia greca, l'amore cortese, il teatro classico del XVII secolo, le preziose e così via. E quindi sono discorsi, dice Colette Soler, che in fondo indicano come si sono fabbricati gli affetti umani, come se ne sono costituiti i sembianti e i modelli che a loro volta potevano essere simbolici, immaginari e così via. Ora, perché Lacan invece parla di folclusione della castrazione? Perché praticamente non è che la castrazione c'è sempre, però dice Lacan, proprio nel seminario ancora, e lo dirà anche dopo, se mi ricordo bene, cioè in una coppia d'amore la costruzione la si dà, in qualche modo è messa in gioco, lui dice proprio la si dà. Invece quando i legami sono disfatti è soltanto, diciamo così, una castrazione in qualche modo, possiamo dire, generalizzata, dove la dissidenza proprio delle pulsioni si può manifestare in altro modo. E non, diciamo, mi vado a sperticare, diciamo, sulla violenza, se vogliamo, contemporanea, che si fa molta fatica a, diciamo, caratterizzare. Ora, rapidamente, per concludere, che può fare lo psicanalista e che può fare la psicanalisi? Quale può essere oggi la sua portata analitica? Ora, in televisione Lacan l'ha detta enorme, ha detto che il discorso analitico poteva promettere l'uscita dal discorso capitalistico. Dunque, lui dà una vera grande forza e sostanza al discorso capitalistico, fino a dire in televisione il discorso analitico è l'unico che c'è e può, diciamo, promettere l'uscita da quello capitalista. Ora, ovviamente qui non è questione di ribaltare il capitalismo, di immaginare una qualche rivoluzione dopo la rivoluzione francese o quella bolscevica, però è questione di sovversione ancora una volta. Ora, che cosa può obiettare la psicanalisi al discorso capitalista? Secondo me lo possiamo anche dire in questo modo, ma lo dice, voglio dire, non mi voglio appropriare di quello che dice Colette Soler e altri, lo stesso ovviamente innanzitutto Lacan, bisogna cercare di suscitare, quello può fare la psicanalisi, un desiderio altro o sostenere i desideri altri. Quindi se il discorso capitalista si fa causa generale del più di godere in qualche modo, vale a dire del plusvalore, in una psicanalisi si rende al soggetto la piccola singolarità che è la sua, la piccola parte di desiderio che non entra nel circuito del discorso. Dunque sostenere un altro desiderio, va bene? È credo quello che, diciamo, la psicanalisi può promettere o comunque può operare, può tentare di operare in questa direzione, anche perché lo sappiamo, siamo tutti presi nel discorso del capitalista e dunque l'unica, secondo me, possibilità è sostenere un desiderio che se ne eccettui. Mi fermerei qui perché ho parlato anche troppo. Allora, molto rapidamente un punto che secondo me ha toccato Francesca, questa questione dei quattro discorsi come legami sociali, che è un punto importante, e qui ci terrei a dire che un punto importante del discorso di Bruno è che Bruno, no, perché proprio su questa questione dei legami, cioè Bruno non è un nostalgico dei grandi gruppi, dei partiti di massa, delle grandi organizzazioni, anzi io penso che sia proprio in una direzione di questo genere che lui si distingue anche da Badiou. E infatti, quando tu citavi questa famosa frase, diciamo così, proletari di tutto il mondo unitevi, io invece me ne sono ricordata un'altra di un grande autore, un autore che amo in modo particolare, che è Nabokov, che in Parla ricordo dice: lavoratori di tutto il mondo, disperdetevi, che è una bellissima frase perché va proprio nella direzione opposta, diciamo così, rispetto a questa qua che era la fase classica. E quindi molto probabilmente, diciamo così, la questione del politico nella riflessione che propone Bruno, su cui ci stanno molte questioni, va proprio secondo me nella direzione di disfare i legami, nell'atto politico come atto che dissolve i legami, che evita le cristallizzazioni di questi legami, di cui per esempio alcuni sono nostalgici, penso almeno a Bauman, no? Di come questa questione della liquidità eccetera è diventata proprio una questione. Invece qui si va in un'altra direzione, e io credo che anche Badiou sia un po' nostalgico di questo, per esempio nel modo in cui intende il soggetto, diciamo così, che deve rilanciare continuamente l'evento, e quindi ne fa il risveglio della storia, da ne fa questo parte, diciamo. Ecco, cioè questo mi sembrava già un primo punto importante, cioè qual è la, se la direzione della riflessione di Bruno nell'uso che lui fa di Lacan, che molto, è chiaro che fa un uso di Lacan, è nella direzione di costruire dei legami stabili, diciamo così, il gruppo di cui parla per esempio Badiou, oppure invece per Bruno questa è proprio una direzione che paradossalmente chiude il discorso invece di aprirlo e di rilanciarlo, qui un uso dell'atto politico come affine all'atto analitico. Quindi vorrei dare adesso la parola a Davide D'Arizzo, che come filosofo ci dirà, diciamo così. Bene, grazie Mario, grazie dell'invito, grazie a Bruno per aver scritto questo libro, che anch'io ripeto, secondo me è un libro che va letto, va studiato e va discusso. E Francesca ha iniziato il suo intervento ricordando Funzione canto di Lacan, e, citando a memoria un passo che io mi ero fotocopiato. Quindi lo leggo tutto perché lo trovo molto istruttivo questo passo e penso che debba essere ricordato. Scrive Lacan, siamo alla fine di Funzione e campo della parola e del linguaggio, che è uno degli scritti, uno dei testi raccolti nel libro di Lacan scritti. Tra tutte quelle che si propongono in questo secolo, l'opera dello psicanalista è forse la più alta, perché essa opera come mediatrice fra l'uomo della cura e il soggetto del sapere assoluto. Diciamo, questa mediazione la si vede a questo tavolo, tra le persone della cura e i soggetti del sapere assoluto che stanno alla sinistra. È anche per questo che essa, l'opera dello psicanalista, esige una lunga ascesi soggettiva e che non sarà mai interrotta, la fine dell'analisi didattica stessa non essendo separabile dall'impegno del soggetto nella sua pratica. Vi rinunci dunque, come diceva prima Francesca, vi rinunci dunque piuttosto a colui che non può raggiungere nel suo orizzonte la soggettività della sua epoca. L'asticella qui è parecchio alta, l'asticella che alza Lacan è impegnativa. Perché come potrebbe l'analista fare del suo essere l'asse di tante vite chi nulla sapesse della dialettica che lo impegna insieme a queste vite in un movimento simbolico? Conosca egli a fondo la spira in cui la sua epoca lo trascina nell'opera continuata di Babele. Sono cose che in realtà, come ricordava giustamente ancora una volta Francesca, si trovano già in Freud. All'inizio della psicologia delle masse, proprio nella prima pagina, Freud dice esplicitamente, ed è il tema poi di tutto il saggio, che la psicologia individuale è sempre al tempo stesso una psicologia sociale. Anche qui si capisce che per Freud, come poi per Lacan, l'orizzonte interno della psicanalisi, la psicanalisi proprio come clinica, non può prescindere da un'analisi più vasta che comprende nell'orizzonte dello psicanalista l'intera soggettività dell'epoca. In questo senso ricerche o scritti come quello che ci presenta Bruno con questo libro sono assolutamente essenziali per la psicanalisi stessa, cioè fanno parte, sono interne all'impresa psicanalitica. Ora vorrei dire, fare qualche osservazione, è molto difficile, come diceva Francesca, presentare questo libro, perché il libro è innanzitutto una raccolta di quattro saggi, Ah, vabbè. Il libro è una raccolta di 4 saggi, 3 molto corposi, l'ultimo è molto più breve ed è anche molto più allusivo dal mio punto di vista sulla democrazia, in cui Bruno prende in esame diversi autori, una sfilza di autori, e scende nel dettaglio dell'analisi, quindi qui è molto difficile restituire il contenuto specifico dei diversi capitoli e del libro nel suo insieme. Farò quindi qualche osservazione sparsa sui diversi capitoli. Il primo capitolo è sostanzialmente su Badiou. Come giustamente ricorda Bruno, negli ultimi 20, 30 anni, anche 40 in fondo, nella teoria politica, nella filosofia politica, c'è stata una specie di svolta lacaniana, cioè un piccolo gruppetto di figure che hanno acquisito poi una crescente autorevolezza nel corso degli anni, e penso allo stesso Badiou, alla Clau e a Žižek sostanzialmente, questa è la santissima trinità, diciamo, del lacanismo politico oggi, hanno proposto con grande visibilità una lettura della fase attuale, della fase storica attuale, alla luce di categorie lacaniane. Giustamente Bruno sottolinea più riprese, e nel testo e soprattutto anche nelle note che fanno parte integrante del testo, perché nelle note è contenuto in certe volte, diciamo, il grosso di questo lavoro. Penso per esempio alla lunga nota su Re Calcati, alle due lunghe note su Re Calcati, o alla lunghissima nota sulla Clau. Giustamente Bruno sottolinea come questi autori facciano un uso talvolta anche disinvolto delle categorie lacaniane, un uso che filologicamente non è, insomma, è abbastanza discutibile. Questo vale soprattutto agli occhi di Bruno per la Clau e per Žižek, vale un po' di meno per Badiou, anche se vale anche per Badiou. Io credo che questi autori siano tutti perfettamente consapevoli, tra l'altro, di questo fatto. Io, che ho avuto la fortuna di conoscere Ernesto La Clau di persona e parlare con lui diverse volte, più volte le avevo posto gli stessi problemi, e lui stesso mi aveva detto: ma io non, nella mia opera non voglio leggere o interpretare Lacan, io uso Lacan per fini teorici completamente difformi, ovviamente. La cosa vale un po' di meno per Badiou e per Žižek, cioè i due sono, si presentano più come interpreti fedeli dell'opera di Lacan. E Badiou è ampiamente discusso in questo testo, è un testo che ha un'andatura, questo primo capitolo direi sorprendente, perché a un certo punto, cioè, sembra che Bruno prenda le distanze all'inizio, sembra che tu voglia analizzare in maniera molto critica l'opera di Badiou. A un certo punto scrivi: l'atto politico di Lacan è un atto di dissoluzione? Punto interrogativo. Badiou ne è certo. Io a questo punto ero convinto che lo facessi a pezzi nelle pagine successive. E invece no. Invece no, perché alla fine del testo, in fondo fai tu alla tesi di Badiou. Fai tu alla tesi di Badiou con tutte le correzioni e le modifiche del caso, ma scrivi qualcosa che appunto qui ci porta dritto nel problema. Se Lacan può, e questo è Bruno che scrive, se Lacan può apparire impolitico, o peggio ancora apolitico, a meno di una estrapolazione forzosa di concetti e dispositivi dal loro contesto originario per riversarli, dopo averli o edulcorati o estremizzati, ma sempre e comunque traditi, se è estremamente severo, in ambiti estranei e addirittura opposti alla psicanalisi, è perché la politica che professa Lacan non è costituente ed edificante, bensì destituente e distruttiva. Una politica dell'insurrezione e dello scioglimento, e dello scioglimento perché dell'insurrezione. Le due cose vanno insieme. Credo che in questo paragrafo ci sia condensato, diciamo, un po' il tuo punto di vista, la tua prospettiva su questo Lacan politico, che io trovo al tempo stesso affascinante e discutibile, giusta e sbagliata, poi cercherò di spiegare perché, dal mio punto di vista, naturalmente. Nel secondo capitolo, che è ancora più complicato perché credo che sia composto di due saggi inizialmente distinti, come ricordava anche Francesca, Bruno fa innanzitutto un'opera di messa a punto interpretativa che secondo me è fondamentale, la fa con grande chiarezza su alcune categorie, in particolare la categoria di sintomo, e penso che sia una lettura molto utile per anche gli apprendisti psicanalisti o per gli psicanalisti in generale. E poi sul plus godere, su questa faccenda del plus godere, in cui metti giustamente in luce che questa categoria di plus godere di cui Lacan parla a lungo, soprattutto quando parla della fase storica attuale o del discorso del capitalista, eccetera, così se in realtà la produzione del plus godere non è la produzione di un eccesso di godere, è in realtà la produzione di una mancanza di godere ripetuta. E Bruno mette bene in luce, secondo me, questi due versanti che vanno tenuti insieme per capire, uno, il senso del discorso di Lacan quando parla di queste cose, due, capire meglio l'oggi, perché Lacan mette a fuoco, secondo me, con grande chiarezza l'oggi. Ma c'è un altro punto in questo secondo capitolo che secondo me è ancora più importante, ed è un punto su cui io sono totalmente d'accordo, sono totalmente dalla tua, ed è un punto su cui secondo me potremmo lavorare in futuro. Anzi, dovremmo lavorare, io ho intenzione di lavorarci. Ed è il punto in cui tu giustamente sottolinei come Lacan avesse capito qualcosa che ancora noi facciamo fatica a capire oggi, cioè che il potere oggi sta nelle aule universitarie. Il potere oggi è un potere di marca universitaria, cioè il discorso universitario è il luogo vero e ultimo del potere moderno, del potere di oggi. E in questo senso scrive delle frasi molto efficaci, a mio avviso. Scrive, per esempio, il potere del capitalismo, il potere moderno, non abita nei parlamenti o nelle residenze dei vari presidenti della Repubblica, primi ministri o rais disseminati sulla faccia del pianeta, né tantomeno si nasconde nei meandri degli organismi transnazionali, come la Banca Mondiale o quella Centrale Europea, del Fondo Monetario Internazionale o dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Non risiede né negli uni né negli altri, eccetto per quel tanto di sapere che in entrambi si trova incorporato o che essi utilizzano nell'esercizio delle loro competenze. Trovo questa frase costruita in maniera perfetta. Il potere moderno, infatti, sta annidato nelle aule universitarie e in tutti quei settori che il discorso universitario ha colonizzato e continua sempre di più a colonizzare, quali le aule giudiziarie con i saperi medico-psichiatrici o le sfere del lavoro e via dicendo. Trovo che queste pagine sulla funzione che assume oggi il discorso universitario come luogo, diciamo così, il potere non è mai, per dire questa cosa in termini un po' più accessibili e non troppo complicati senza usare il lacanese, il potere nella misura in cui funziona è sempre un potere che si legittima, che ha una qualche forma di legittimazione agli occhi dei soggetti, dei sudditi, quali noi siamo. Oggi il luogo di questa legittimazione del potere è esclusivamente l'università. Però con la osservazione, con il corollario, che come Lacan ci illustra, per esempio con la teoria dei quattro discorsi, di cui anche Bruno si è occupato a lungo, il sapere universitario è una cosa che ha una struttura particolare, è un dispositivo, come avrebbe detto forse Foucault, è un discorso, cioè una forma di legame sociale. E adesso non scenderò nel dettaglio di questa cosa, però trovo che sia veramente uno dei punti fondamentali di questo libro, questa che a mio avviso è anche una pista di ricerca, perché si tratta di capire per esempio meglio qualcosa che tu accenni nel libro, cioè la coalescenza tra per esempio il discorso del capitalista e il discorso universitario. Nel terzo capitolo, di nuovo, Bruno legge e discute una serie di testi anche abbastanza eterogenei, partendo da un'ipotesi che è un'ipotesi rigorosamente freudiana, e in quanto freudiana io l'accetto sempre per principio, cioè che le società, che il legame sociale, che le forme di assetto del potere anche, producono inevitabilmente una certa dose di angoscia, una certa dose di patologia, una certa dose di sintomaticità anche. E questo per una ragione molto semplice, cioè il legame sociale impone il sacrificio occlusionale, e questo sacrificio occlusionale poi deve trovare delle forme di espressione alternative. Di qua il confronto con uno dei primi autori che ha toccato questo tema, che è Franz Neumann, una figura che non fa parte integrante, diciamo, di quella che si chiama la scuola di Francoforte, ma è molto vicino alla scuola di Francoforte, e scrive un testo, Angoscia politica, vero? Abbastanza importante già negli anni 40 o 50. 54, sì. Che tu discuti ampiamente, in questo testo Neumann si confronta anche con il Freud della psicologia delle masse e del disagio della civiltà, tu gli fai le scarpe a Neumann, giustamente, e produci nel frattempo anche una parziale rilettura della psicologia delle masse che mi trova in parziale disaccordo, ma non ne parlerò qui, e nel frattempo poi analizzi per esempio un testo di Lyotard verso l'inizio del capitolo e verso la fine poi il testo di Levinas sull'hitlerismo e concludi con una citazione da Pasolini. Mi sembra che il capitolo mi sembra molto interessante, anche se nello specifico io personalmente non ne condivido dei pezzi. Mi sembra che l'idea sia quella che nella nostra società, dove sulla base di quello che tu hai detto nel capitolo precedente, questa produzione sfrenata di plus godere è in realtà una produzione espansiva di mancanza a godere e quindi è una forma di legame sociale che produce un'angoscia crescente, si tratta di trovare forme di gestione politica di questa angoscia. Tu accenni alla questione del corpo in Levinas per arrivare poi con un salto abbastanza audace ma abbastanza comprensibile nell'economia secondo me del testo al corpo del capo, al corpo di Berlusconi, al modo in cui Berlusconi gestendo l'angoscia per il proprio corpo in un certo senso si rende specchio, si è reso specchio di un possibile incanalamento dell'angoscia sociale crescente. Concludi citando Pasolini. Citando il Pasolini degli anni 70, un Pasolini che chi lo conosce sa assume dei toni anche estremi e disperati, ma anche estremamente suggestivi che andrebbero ripresi, e citi da Pasolini, come dire, ventilando la minaccia di quello che Pasolini chiama esplicitamente un ritorno del fascismo. Pasolini parlava di un nuovo fascismo in quegli anni. E se avete letto Petrolio avete trovato la descrizione in quel libro di quello che Pasolini intendeva per nuovo fascismo, più che nelle lettere luterane o negli scritti sparsi. Pasolini dice, non dico, come lo cita Bruno, non dico che non c'è il fascismo, dico smettetemi di parlarmi del mare mentre siamo in montagna, questo è un paesaggio diverso, qui c'è voglia di uccidere. Se Lacan era preveggente negli anni 70, Pasolini lo era altrettanto. E qui tu apri un problema che secondo me è un problema di nuovo, è un'agenda, è un'agenda di ricerca, è un programma di ricerca, a partire dalle indicazioni di Lacan e di Pasolini, cercare di capire che cosa può essere il nuovo fascismo o che cosa significa fascismo, perché noi in realtà quando parliamo di fascismo partiamo sempre dall'idea, secondo me abbastanza illusoria, di sapere che cosa è stato il fascismo, di sapere anche il risultato del fascismo degli anni 30. È però abbastanza curioso, lo sa chi lo fa di professione, chi si occupa di filosofia politica o teoria politica di professione, che non esiste una teoria politica del fascismo. Non esiste, ci sono dei tentativi, per esempio un tentativo tra i più riusciti forse, di sistematizzazione teorica della categoria di fascismo, data da Mosse, che però è uno storico. Ci sono soprattutto questo tipo di indagini riprese per esempio in Italia da Gentile per capire che cos'è stato il vecchio fascismo, ma noi in realtà non abbiamo ancora capito che cos'è stato il vecchio fascismo, il fascismo degli anni 30, tantomeno siamo in condizione di capire che cosa può essere il nuovo fascismo, tantomeno siamo in grado di capire se noi viviamo in una condizione di nuovo fascismo. Ora Lacan pensava che noi vivessimo in una condizione di nuovo fascismo e ci sono parecchi indizi nei seminari degli anni 70, ne ho scelto uno che adesso tradurrò al volo, di cui tradurrò al volo alcune frasi, tratto dal seminario Le non dupe er. Lacan parla, riprende in questo passo del seminario una categoria che ha elaborato già a partire dal rovescio della psicanalisi, molto specifica, che è l'être nommé a, l'essere nominato a qualcosa, che è una forma di legame sociale. Essere nominato a qualcosa, ecco ciò che per noi, in questo momento della storia, passa davanti al nome del padre. È abbastanza strano che qui il sociale prenda la forma di un nodo. È molto interessante perché questo in strada anche per capire che cosa stava cercando Lacan indagando la teoria dei nodi. E detiene questo potere di nominare a il sociale a tal punto che dopo tutto ne viene fuori un ordine che è di ferro. Che cosa designa questa traccia come ritorno del nome del padre nel reale? In quanto appunto il nome del padre qui è verworfen, è forcluso, è rigettato. E a quale titolo designa questa, questo nominare A designa questa forclusione? E poi qualche riga sotto dice: non è questo il segno di una degenerance catastrophique, di una degenerazione catastrofica? Sono frasi molto forti, sono frasi molto pesanti, sono frasi anche preveggenti, in cui senza dubbio qua abbiamo a che fare con, cioè Lacan sta dicendo che nel legame sociale che stiamo sperimentando nella fase storica attuale qualcosa è forcluso, siamo nell'orizzonte della forclusione, parla esplicitamente di psicosi. La forclusione del nome del padre è il segno di una psicosi, in questo caso diventerebbe una psicosi sociale. Parla di degenerance catastrophique, degenerazione catastrofica. Mi sembrano tutti indizi, e ce ne potrebbero dare anche molti altri, del fatto che Lacan, al pari di Pasolini, e in fondo perché entrambi gli uomini in maniera diversa conoscevano, secondo me, il volto notturno del loro tempo. Lacan perché lo conosceva questo volto notturno e più nascosto dal lettino, Pasolini perché sappiamo che lo conosceva in altro modo e fa continuamente riferimento a questa sua vita nell'oscurità. Entrambi colgono un passaggio storico, secondo me, che appunto è un passaggio storico al quale fa riferimento, mi pare, anche Bruno, quando ventila, citando Pasolini, questo possibile ritorno di un ordine di ferro, o io direi forse addirittura la presenza in questo momento di un ordine di ferro. Nell'ultimo capitolo tocchi il tema della democrazia, è un capitolo che ho trovato più difficile da seguire, mi sembra che fai abbastanza l'occhiolino a Rancière, fino a un certo punto se non altro, è diciamo un Rancière, la parte senza parte, la democrazia come parzialità, che fa l'occhiolino a Rancière tenendo per mano Lacan. E in tutto questo mi sembra, in tutto il libro, mi sembra che ci sono, oltre a Lacan, due altri vettori che fanno parte, diciamo, della tua identità di filosofo. Uno è senz'altro il vettore di Benjamin, e questo mi riporta al problema della politica come dissoluzione, al tuo precedente libro, quello su Benjamin, sulle rovine, sulla... un Benjamin senza redenzione, quello tuo, che mi sembra sia molto presente anche nello sguardo che tu getti sulla carta. L'altro è Derrida, diciamo un altro filosofo che tu prendi privandolo del lato messianico e escatologico. Questo per dare il paesaggio complessivo, diciamo, della prospettiva filosofico-teorica in cui si inquadra questo libro. Ci sono una serie di osservazioni sparse su politica e metafisica, per esempio, che mi trovano molto d'accordo, quelle sulla vita naturalmente altrettanto. A me è capitato di scrivere questo libro sulla vita che tu citi a un certo punto, e lo citi discutendo la conferenza di Lacan intitolata La Terza, e in effetti io scrivendo quel libro ho costantemente sott'occhio quella conferenza di Lacan. Ora vorrei svolgere, se ho ancora tempo, soltanto qualche riflessione sulla questione appunto della politica come atto di dissoluzione. Dunque, voglio partire da un'altra constatazione però. Io penso che nel percorso di Lacan c'è stato un momento in cui Lacan ha visto la possibilità di un atto politico decisivo, di un atto politico rivoluzionario, ed è il 68. Lui senz'altro all'inizio, nelle prime fasi del 68, percepisce, coglie, sente delle virtualità che poi vede dissiparsi nell'arco dei mesi, e di qua la posizione poi finale molto polemica nei confronti degli studenti qualificati come isterici. Lui, perché Lacan, a mio avviso, soltanto nel 68 sembra credere in una qualche forma di intervento politico e anche di opportunità per la psicanalisi, proprio perché il 68 è l'unico momento storico in cui viene posto in discussione il cuore del potere moderno, e questo cuore è l'università. Questo mi pare molto importante anche per una lettura dei quattro discorsi, che i quattro discorsi secondo me sono la formalizzazione di questa esperienza, che al tempo stesso è un'esperienza storica, è un'esperienza anche di riflessione personale di Lacan su quello che stava succedendo. Questo ribadisce il fatto che un atto politico, a mio avviso, efficace per Lacan non può che essere un atto politico, perlomeno così dalle sue testimonianze del tempo, un atto politico che revoca radicalmente in questione il discorso universitario. Cioè noi. Sì, revoca. Cioè noi, revoca in questione lui e me. C'è poi un altro punto, pure che vorrei sottoporre alla discussione, cioè non c'è dubbio che per pensare l'atto politico in una chiave lacaniana, in una chiave psicanalitica, bisogna cercare di capire che cos'è l'atto analitico, che cosa succede in un'analisi. Ora, senza dubbio, l'analisi lacaniana non è un'analisi prescrittiva, normativa, cioè al termine della cura, il termine della cura, diciamo così, non è prevedibile fin dall'inizio. L'analista accompagna semplicemente colui che svolge effettivamente il proprio lavoro di analisi, cioè l'analizzante o il paziente, e capire il senso di questa operazione naturalmente aiuterebbe molto a capire il senso della sua possibile traduzione in termini di atto politico. Che cosa potrebbe essere un atto politico? Sicuro possiamo escludere che lo psicanalista o il teorico politico ispirato dalla psicanalisi lacaniana possa scrivere una repubblica di Platone, cioè una teoria dello stato ideale, o possa offrire un qualsiasi inquadramento normativo, prescrittivo, dire che cosa sarebbe meglio per la società. Mi pare che il tipo di intervento di carattere politico che si può concepire in una prospettiva analitica è proprio quello di un intervento nella congiuntura storica. Nella congiuntura storica che ogni volta è molto specifica e determinata da un insieme di fattori totalmente contingenti, esattamente allo stesso modo di una vita individuale, di un'esistenza individuale, che è fatta di una tessitura di fatti, di storie, di eventi, di traumi, di cicatrici che appartengono a quel singolo soggetto e non a nessun altro. Mi pare che, per semplificare molto, si potrebbe dire che l'atto analitico, diciamo, senza parlare dell'atto analitico specificamente come atto analitico, di cui Lacan, se non mi sbaglio, proprio alla fine degli anni 70 diceva che gli analisti hanno orrore. Si tratta di capire dunque che cos'è questo atto analitico di cui gli analisti hanno orrore. Ma l'atto analitico, o diciamo il senso dell'operazione analitica nei confronti dell'individuo analizzante, mi sembra che sia quello non di insegnargli a vivere, non è un'operazione pedagogica, o di dirgli che cosa potrebbe essere meglio per lui, e secondo me potremmo descriverlo come un'opera di disincagliamento da degli ostacoli che impediscono l'incontro con la contingenza o impediscono la creazione di un nuovo orizzonte. spostato in termini di analisi politica o teoria politica, questo vorrebbe dire appunto andare nel senso, secondo me, che ci dice Bruno, cioè l'atto politico come atto di dissoluzione, però non declinato, e qui ci sono appunto dei piccoli problemi che io, forse con la tua prosa, non so se con il tuo pensiero, quando tu insisti molto sul il carattere distruttivo di questo atto dissolutivo, che questo mi ha ricordato per esempio il tema delle rovine nel libro su Benjamin o altre, o il concetto stesso di decostruzione, cioè qui mi sembra che andiamo a toccare qualcosa che può sembrare, come dire, un dettaglio, ma in realtà concerne delle differenze millimetriche che possono però diventare abissali nell'approccio sia col testo di Lacan sia con le sue possibili potenzialità applicative. L'atto politico dovrebbe essere un atto, rileggo alla luce di Lacan, un atto che apre, non soltanto distrugge, un atto che al tempo stesso slega ma la ridisloca e offre delle opportunità, apre delle possibilità o dischiude un orizzonte di virtualità. In questo senso io credo che anche dal tuo libro si traggono, secondo me, delle indicazioni, diciamo, che non ci chiudono in una tragedia pessimistica totale. Sono due, e concernono noi anche, concernono lo psicanalista in generale, perché io ho letto questa citazione da Lacan perché appunto, come diceva Mario, come diceva Francesca, il compito di riflettere sulla propria epoca dovrebbe essere uno dei compiti dell'analista, non soltanto del teorico che si occupa di psicanalisi. Dunque le due indicazioni sono tornare a riflettere su il discorso universitario o il dispositivo universitario, questo mi sembra, nel suo legame particolare formalizzato da Lacan negli schemini, nel matema dei quattro discorsi, con S1, con il punto di padrone, perché il discorso del padrone, per il discorso del maître, nella lettura che dà Lacan, è il discorso politico. Il politico, come dice, non mi ricordo in che seminario, come inizia negli anni 70, la politica nasce quando qualcuno lancia un bastone, e questo bastone è S1, il significante maître, appunto. Ora, il discorso universitario è caratterizzato nell'esposizione che ce ne dà Lacan proprio dal fatto che, come poi il discorso del capitalista, esclude S1, cioè unterdrückt, reprime S1 sotto la barra nella posizione della verità. Questa verità però è una verità, diciamo, che nel dispositivo universitario rimane radicalmente inattingibile. In questo senso ci sarebbe una specie di incompatibilità, da un lato una specie di assunzione, di presa in carico del politico da parte del discorso universitario, dall'altro però in una forma che definirei, e non è una parola che scelgo a caso, perversa, di diniego della funzionalità di questo significante metra. Questi sono soltanto piccoli accenni per dire come secondo me sia centrale questo discorso di questo tentativo di articolare teoricamente e potenzialmente anche in via politica poi il rapporto tra discorso universitario, discorso capitalista e discorso del maître. La seconda appunto è quella che dicevo prima, cioè cercare di capire meglio, in questo senso un dialogo costante tra anche chi come noi non fa l'analista e invece gli analisti, sul senso dell'atto analitico e sulle possibili poi traduzioni di questo atto analitico in atto politico con gli analisti, sono occasioni di discussione che secondo me arricchiscono tutti. Poi mi fermo qui, poi dopo magari una sorta di dibattito qua. Allora, vogliamo fare una pausa di 5 minuti? Sì, bravo. Sì, sì. Facciamo una pausa, io prendo un caffè. Sì. Dico una cosa e poi vai. Va bene, come